Da quando l'articolo 18 non è più un tabù, anche in Italia stiamo scoprendo i piaceri del lavoro libero e occasionale. D'altronde, come dice sempre anche il noto giuslavorista Pietro Ichino, chi non lavora non fa l'amore. Quindi, quella a cui stiamo assistendo oggi in Italia è una vera e propria rivoluzione sessuale del lavoro. I giovani adesso, prima di impegnarsi in un lavoro serio e stabile, fanno le loro esperienze, lavorano con persone diverse, anche dello stesso sesso, non si vergognano di praticare il lavoro manuale e sperimentano anche il lavoro di gruppo. L'importante è che il lavoro sia protetto e che siano consenzienti sia il dipendente che il datore di lavoro. Per il resto tutto è concesso, anche lavorare con gli animali. Il lavoro minorile no, è reato, ma per esempio con le liberalizzazioni oggi è possibile lavorare in un'impresa familiare senza destare scandalo. Dopotutto l'hanno ammesso persino i sindacati, che non c'è cosa più divina che lavorare con la cugina. Le abitudini dei lavoratori adesso stanno cambiando. Un tempo ci si portava il lavoro a casa, adesso invece che nessuno ha più una casa, si lavora anche in pubblico, davanti a tutti, senza vergogna. L'aspirazione massima per un lavoratore resta l'assunzione a tempo indeterminato, il famoso contratto tantrico, ma molti non disdegnano anche prestazioni occasionali. E se un tempo era un valore arrivare disoccupato al matrimonio, oggi ci resti pure dopo. Nei colloqui di lavoro adesso fanno domande del tipo: durante un impiego ha mai finto uno stipendio? Oppure, qual è il posto più strano dove hai lavorato? Io per esempio una volta ho lavorato in un ascensore, ma conosco della gente che ha lavorato persino su una lavatrice o dentro un'utilitaria con i sedili reclinati. È quella che chiamano flessibilità. Ora le fantasie dei lavoratori stanno cambiando. Un tempo gli italiani sognavano il posto fisso, sempre quello, lui sopra, lei sotto alla scrivania. Adesso invece il sogno professionale delle donne è lavorare con uno sconosciuto, magari lavoro nero, mentre gli uomini sognano di lavorare con più donne oppure di guardare due donne che lavorano al posto suo. E c'è anche chi si è scoperto lavoratore atipico. Per esempio c'è chi era partita IVA a Casablanca ed è tornato Ivano. Certo, i problemi non mancano. Molte donne dichiarano ancora di non raggiungere un impiego, mentre molti uomini soffrono di licenziamento precoce. E poi il liberismo ha portato anche a forme di perversione, come gli esibizionisti, gente che si aggira nei parchi, apre l'impermeabile e mostra il curriculum, o quelli che su internet passano le ore a masturbarsi sui siti di annunci di lavoro solo perché hanno trovato un blowjob. Ma il precariato non fa diventare ciechi e i dati parlano chiaro. Un italiano su tre fa sesso sul posto di lavoro, probabilmente perché eccitato dal fatto di avere un lavoro.